in primo piano. Buongiorno a tutti, eccoci qui a leggere i giornali. Qualunque sia questa mattina il giornale che deciderete di leggere, troverete molte pagine dedicate alla tragedia dell'Abruzzo, molte fotografie drammatiche, i racconti delle vittime, i salvataggi, ma anche le polemiche per le norme antisismiche disattese e soprattutto per queste previsioni fatte nei giorni scorsi e forse sottovalutate. Vediamo i titoli dei principali giornali. Partiamo dal Corriere della Sera: macerie e morte in Abruzzo, sisma devastante, più di 150 vittime, 70.000 sfollati, Berlusconi, non vi abbandoniamo. Questo è naturalmente il titolo di apertura, con due fotografie grandi della tragedia di ieri. Sono richiamate in prima pagina anche altre due notizie. Obama: non siamo in guerra con l'Islam, il viaggio in Europa si chiude con un nuovo sostegno alla Turchia nella UE, e lo stop americano all'elicottero italiano per Barak, i tagli alla difesa. Repubblica: Abruzzo in ginocchio, 150 morti, il terremoto devasta L'Aquila, 70.000 senza tetto, è polemica, poteva essere previsto. Anche qui il taglio basso è dedicato al presidente degli Stati Uniti in viaggio in Europa. Obama: no alla guerra con l'Islam, il presidente USA in Turchia archivia lo scontro tra civiltà e insiste sull'ingresso in Europa. E anche qui l'elicottero presidenziale costa troppo, la Casa Bianca boccia l'elicottero di Fiumicino. Il progetto dell'azienda italiana sfiorava i 13 miliardi di dollari. La Stampa: si scava, già 150 morti, ancora centinaia di dispersi tra le macerie, il dramma di 100.000 sfollati sotto la pioggia, Berlusconi subito sul luogo della tragedia, il governo stanzia 30 milioni per l'emergenza. Il Sole 24 Ore: morti, dolore e leggi dimenticate, inapplicate in tutta Italia, molte norme antisismiche approvate 4 anni fa. A centropagina sul Sole 24 Ore troviamo anche i bonus per l'assunzione dei lavoratori in cassa, ok della Camera, decreto legge incentivi al Senato per il via libera finale. E poi anche accordi con la Russia su energia, TLC, meccanica, patto Eni, Enel, Gazprom, la missione di governo e Confindustria in Russia. Il Messaggero: siamo tutti con voi, oltre 150 morti, 1.500 feriti, 70.000 sfollati, scatta la corsa alla solidarietà. Il Giornale, una foto quasi a tutta pagina, l'urlo, terremoto in Abruzzo, oltre 150 morti, 250 dispersi e 100.000 sfollati, si scava ancora sotto le macerie, già 100 le persone estratte vive. L'Unità: calvario d'Abruzzo, centinaia di morti, alle 3.32 il sisma, già 150 vittime, tanti dispersi, paesi cancellati. Il fascione rosso che caratterizza la prima pagina dell'Unità è un virgolettato di Franco Barberi, presidente onorario della Commissione Grandi Rischi, di ieri. Se è vero che anche gli edifici moderni hanno subito danni ragionevoli, ancora una volta si pone il tema del controllo della qualità delle costruzioni. Un terremoto così, in California, non avrebbe provocato nemmeno un morto. Libero: terremoto in Abruzzo, aiutiamo noi bambini. Libero lancia una sottoscrizione a favore dei piccoli rimasti senza mamma o papà, immediati soccorsi alle popolazioni, inutili le polemiche sulla prevedibilità del sisma. Avvenire: inchiniamoci al dolore, terremoto devasta la zona dell'Aquila, almeno 150 le vittime, decine di migliaia gli sfollati, si scava alla ricerca dei superstiti. Il Manifesto: catastrofe umana, la foto è a tutta pagina. Liberazione: non solo destino, terremoto in Abruzzo, oltre 150 morti finora accertati, 1.500 feriti, 70.000 sfollati e richiamo di prima pagina. Il Giorno: l'apocalisse, sisma in Abruzzo, morte e distruzione, la terribile scossa ieri notte alle 3.32. Il Secolo XIX, infine, colpo al cuore, un sisma sconvolge il centro dell'Italia. Per ultima la Padania: l'Abruzzo in macerie, grande mobilitazione del nord in soccorso alle popolazioni colpite dal terremoto. Questi erano i titoli dei principali giornali. Vediamo a questo punto di approfondire qualche cosa. Cominciamo con il Corriere della Sera. Corriere della Sera che parte in prima pagina con un articolo di Gian Antonio Stella, che segue poi nelle pagine interne. È il racconto della giornata di ieri. E comincia così. Bare, mandate altre bare, ancora, ancora. Alle 4 del pomeriggio, tra i ciliegi e i mieli in fiore di Onna, l'antica villa Unda, nota al Papa Clemente III, è già chiaro che non bastano tutte quelle casse di legno chiare fatte arrivare a più riprese fin dalla mattina e allineate da una parte sotto il tronco di una robinia. Un poliziotto stende sull'ultimo poveretto estratto dalle macerie, infagottato tra coperte e lenzuola, un pezzo di nastro adesivo da pittori. Ci scrive un nome con il pennarello. Non c'è un passero che voli nel cielo azzurro di Onna, non una rondine che sfrecci, non una cincia allegra che canti, solo il silenzio, un silenzio gonfio di disperazione, rotto solo dal pianto di qualche parente e dal rumore dei caterpillar che affondano le pale tra le rovine, tirando su enormi cucchiaiate di quotidianità annientata, frigoriferi sepolti sotto tonnellate di pietra con una confezione di uova rimaste miracolosamente intatte che si rompono rotolando via nella polvere, stufe a gas, credenze dai vetri scoppiati coi bicchierini del vermouth della domenica, rovesciati tutti da una parte, spalliere di ottone che emergono tra i travi e i mattoni, luccicando gialle sotto il sole. Silvio Berlusconi, che si è precipitato nel cuore di questo Abruzzo ferito, annullando il viaggio in Russia dove era in programma una missione a fianco degli imprenditori, ha un maglioncino nero, la faccia nera e assicura che nessuno verrà lasciato solo, ma la situazione è davvero pesantissima. Per quanto riguarda il centro storico di L'Aquila c'è l'inagibilità assoluta, tutti gli edifici pubblici sono inagibili. Questo era l'inizio in prima pagina del Corriere della Sera dell'articolo di Gian Antonio Stella, che segue poi nelle pagine interne insieme a tanti altri racconti. E sempre sul Corriere della Sera il caso delle polemiche. Scoppia il caso del ricercatore, l'avevo previsto. Nei giorni scorsi aveva lanciato un avvertimento ed era stato denunciato per procurato allarme, ma Giampaolo Giuliani insiste, con il suo sistema di misurazione del gas radon i terremoti si possono prevedere. Ribatte Guido Bertolaso, il capo della protezione civile, si tratta di metodi non scientifici e ottiene l'appoggio di governo e opposizione. Ma Di Pietro alcuni radicali replicano, sarebbe stato meglio verificare. E proprio per approfondire questa vicenda prendiamo invece Repubblica in una delle molte pagine interne dedicate a questo argomento. L'avevo detto, scontro sull'allarme ignorato, a pagina 9, il terremoto era prevedibile ad annunciare una forte scossa sismica per ben due volte, il 13 e il 29 marzo, ma a Sulmona, non all'Aquila, è stato il ricercatore Giampaolo Giuliani. E di Giuliani c'è un racconto, il racconto della sua giornata su Repubblica, ora tutti lo guardano come una Cassandra del 2009, Gioacchino Giampaolo Giuliani, 62 anni, tecnico di laboratorio che collabora con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare del Gran Sasso, non avrebbe mai voluto che la sua profezia diventasse realtà. Ieri è rimasto a lungo in casa, a Coppito, frazione di L'Aquila, a consumare il suo doppio tormento, per la tragedia che ha colpito la sua terra e per il rimpianto di non essere riuscito a farsi ascoltare. Poi è uscito in strada, lì ha mostrato la sua rabbia, è scoppiato in lacrime davanti alle telecamere di Porta a Porta, intervistato da Bruno Vespa. Sapevo tutto e non ho potuto far nulla per evitare questo disastro. Ho salvato solo la mia famiglia, non ho potuto salvare gli altri. Non sapevo a chi rivolgermi. In TV Giuliani rievoca l'escalation emotiva che ha vissuto domenica sera. Alle 18 ho visto che c'era un valore del 2,7, il solito sciame. Alle 22 il radon correva. Alle 22:20 tutte le stazioni davano valori oltre quota 4. Alle 24, ormai disperato, ho preso la mia famiglia e l'ho portata fuori. Questo è il racconto di Giuliani su Repubblica. Lui aveva previsto in qualche modo l'arrivo del terremoto, ma non è stato ascoltato. Gli risponde dalle pagine del Corriere della Sera Bertolaso, il capo della Protezione Civile. Il racconto è a pagina 12 con un po' di retroscena. Bertolaso e la guerra agli allarmisti imbecilli, non potevo sgomberare. Una settimana fa se la prese con gli imbecilli che si divertono a creare allarmismi, ma ieri mattina, quando l'hanno svegliato alle 3:35, tre minuti dopo che il sisma si era portato via un pezzo di terra d'Abruzzo e più di un centinaio dei suoi abitanti, Guido Bertolaso ha sperato con tutto se stesso che fosse ancora una volta farina di qualche imbecille. Non era così, purtroppo, e da quel momento il grande capo della protezione civile, 59 anni, di cui gli ultimi 8 spesi tra terremoti, alluvioni e italiche disgrazie, è stato preso in ostaggio da una di quelle giornate che possono segnarti la vita. E ricominciamo guardando sulla stampa l'editoriale di Lucia Annunziata, che si occupa invece della reazione del governo e dell'opposizione, quindi della reazione politica alla tragedia. L'editoriale parte dalla prima pagina, si intitola stavolta "Lo Stato c'è". Come sempre, i racconti dei sopravvissuti ci dicono che nelle difficoltà gli italiani danno il meglio di se stessi. Ma il terremoto che ha devastato l'Abruzzo sembra svelare qualcosa di diverso, scrive Lucia Annunziata sulla stampa. Svela qualcosa di diverso anche nell'operare della classe politica. Una sorta di dignità e di assunzione di responsabilità non scontate nel velenoso clima politico che avvolge il paese. La macchina dello Stato ha ben operato. Nel clima di lutto generale, prosegue poi l'editoriale di Lucia Annunziata, ieri l'Italia politica, governo e opposizione si è comportata con dignità. In questa serietà ritrovata emerge anche un metodo che appare efficace agli occhi dei cittadini. Ha fatto bene Berlusconi a metterci la faccia, andando a rassicurare gli italiani che lo Stato non è così lontano. È un metodo che nel passato, vedi Napoli, gli ha già portato un successo. E la decisione di Dario Franceschini di mettere prima di disposizione la forza locale del PD e poi recarsi presto in Abruzzo, come dice ancora il suo portavoce, non appare un passo improvvisato. Piace immaginare, conclude il pezzo, in queste ore di lutto, che tutto questo potrebbe davvero contenere una lezione sui nuovi tempi di crisi e di drammi. Uscire dai palazzi e confrontarsi con la concretezza della vita reale è ben più premiante che misurarsi fra schieramenti opposti nelle cupe aule di Camera e Senato. Vediamo invece sul Sole 24 Ore un altro aspetto della vicenda, cioè quello delle leggi antisismiche dimenticate. Il titolo di apertura del Sole, ve lo ricordo, è "Morti, dolore e leggi dimenticate, inapplicate in tutta Italia molte norme antisismiche approvate 4 anni fa. E nel richiamo di prima pagina si segnala che la tragedia dell'Abruzzo riaccende le polemiche sull'applicazione delle normative edilizie antisismiche. Le norme tecniche del 2005 sono in tutta Italia in gran parte inattuate. A questo tema è dedicato un articolo a pagina 5, regole antisisma congelate al 2005, continuamente rinviata la disciplina varata dopo il crollo della scuola in Molise. Di proroga in proroga, di terremoto in terremoto, non sono ancora entrate in vigore le norme tecniche per le costruzioni. Non sono ancora entrate in vigore. Le norme tecniche per le costruzioni sono nate nel settembre 2005 con il pensiero rivolto al sisma del 2002 in Molise, che uccise 27 bambini e mise a nudo la drammatica realtà di un paese come l'Italia, ad alto rischio sismico, privo di regole e di sicurezza per gli edifici e disattento rispetto al patrimonio esistente. Dal 2005 a oggi però non è cambiato molto, tanto che il governo sta pensando di correre ai ripari anche attraverso il piano casa e di vincolare, come ha spiegato Claudio Scajola, ministro per lo sviluppo economico, gli incentivi per l'ampliamento al rispetto delle norme di costruzione antisismica. Proprio quelle norme hanno già avuto 3 proroghe, 2 del governo Prodi, 1 del governo Berlusconi, ritocchi e fasi transitorie, e ancora oggi non sono obbligatorie. Nonostante siano, come spiega Luca Sampaolesi, professore emerito di tecnica delle costruzioni a Pisa, la prima normativa italiana che adotta principi seri in tema di antisismica, e questo continuerà a fare polemica nei prossimi giorni. A questo punto, per gli ultimi minuti che ci restano, leggerei qualcosa dai giornali che non riguarda il terremoto, e prendo da Repubblica il viaggio del presidente americano in Turchia, in Europa, e ieri in Turchia. Il titolo è richiamato in prima pagina: Obama no alla guerra con l'Islam, il presidente USA in Turchia archivia lo scontro tra civiltà e insiste sull'ingresso in Europa. Gli Stati Uniti non sono e non saranno mai in guerra con l'Islam. Barack Obama scandisce ogni parola e scatta il più lungo degli applausi del Parlamento turco. L'articolo prosegue poi a pagina 20. Per sottolineare la volontà del nuovo presidente di archiviare ogni guerra di religione e di aprire un dialogo che porti a una nuova stagione nei rapporti tra l'America e il mondo musulmano. Un discorso di 26 minuti davanti all'Assemblea nazionale, il primo di un Parlamento straniero da quando è stato eletto, scelto con la volontà di ancorare la Turchia all'Occidente e di non perdere quello che gli Stati Uniti ritengono l'alleato fondamentale per la stabilizzazione del Medio Oriente e di Iraq e Afghanistan. Così Obama ha ribadito con decisione il suo sostegno all'ingresso di Ankara in Europa, nonostante la forte opposizione espressa dal presidente francese Sarkozy, che gli aveva ricordato che è una decisione che spetta agli europei, e nonostante il gelo dei tedeschi. Voglio essere chiaro, gli Stati Uniti sostengono con forza la richiesta della Turchia di diventare un membro dell'Unione Europea. Non parlo certo come presidente di un paese della UE, ma come un intimo amico di entrambi. Obama ha sottolineato che la Turchia è legata all'Europa da qualcosa che è più dei ponti sul Bosforo, da secoli di storia condivisa, da cultura e commerci, ed è un alleato affidabile e un partner responsabile nelle istituzioni europee e transatlantiche. Ma non basta. Il presidente ha voluto ricordare il lungo percorso fatto dalla Turchia per avvicinarsi agli standard richiesti dall'Unione, partendo dai cambiamenti legislativi degli ultimi anni. Questo era il reportage dell'inviato Calabresi su Repubblica. Al tema dell'ingresso della Turchia in Europa è dedicato anche il fogliettone di prima pagina del Sole 24 Ore, firmato da Alberto Negri, Turchia in Europa, Roma in sintonia con Washington. Sottile come una lamina, il ponte sospeso sul Bosforo è il simbolo di Istanbul e della posizione unica della Turchia come porta d'ingresso che collega l'Europa all'Asia. Comincia così il servizio di Alberto Negri. La Turchia occupa uno spazio geopolitico così vitale che basterebbe a sfumare l'idea stessa che i continenti siano qualcosa di distinto l'uno dall'altro. Ma è proprio quest'idea, quella di un'Eurasia antica quanto la nostra civiltà, che viene continuamente messa in discussione. La Turchia, dicono alcuni paesi chiave dell'Unione Europea, non è Europa, anche se dentro i suoi confini ne contiene un lembo consistente, popolato da milioni di persone e con quasi un terzo dell'intero prodotto interno lordo di un paese di oltre 70 milioni di abitanti. Infine, per concludere la rassegna di oggi, vi leggo qualche riga sullo stop della difesa americana all'elicottero per il presidente. Costruito anche da Finmeccanica, la profonda riforma nei programmi con cui il Pentagono acquisterà le armi per il suo arsenale è iniziata, sto leggendo dal Sole 24 Ore. Un piano, quello presentato ieri dal segretario alla difesa Robert Gates, che va nella direzione di dotare gli Stati Uniti di armi efficaci a combattere le guerre non convenzionali, senza eludere le raccomandazioni sul contenimento dei costi. E nella lista nera dei programmi da ridurre o eliminare è finito anche il nuovo elicottero presidenziale della cordata costruita da Lockheed Martin e Augusta Westland di Finmeccanica. Gates lo ha definito troppo caro e afflitto da eccessivi ritardi, pur aggiungendo che c'è bisogno di un nuovo elicottero presidenziale. Anche per oggi abbiamo finito, ci fermiamo qui.